Löhlein. Come si pronuncia il tuo nome? How do you Henning Löhlein. Löhlein, facile, no? Yeah. I was so focused on U, and then after I forgot everything, you know. Era troppo focalizzata alla U, all'umlaut si chiama, no? Very good. Esatto, Io come dicevo so solo tradurre dall'italiano all'inglese. Italiano all'inglese. Però hai tradotto perfettamente dall'inglese all'italiano. Mentre invece adesso traduciamo direttamente da subito dall'italiano al Marco Roma. Ci siamo? Buongiorno! Dimmi cosa vale di più tra me e te, dimmi al centro di ogni altra cosa ci sei tu, con le ali sto volando, da Marco Roma, buongiorno! È strano, ha aggiunto anche un sto volando. No, è un momento strano per Marco Roma, devo dire. Comunque aggiornaci Marco, se vuoi mandaci un SMS al 333 180 94 94 e facci capire cosa sta succedendo nella tua vita, perché io qua sto anche perché un parlato non l'aveva mai messo all'interno dei suoi vocals. Sto volando, ho detto proprio così, sto volando. Cioè, quasi okay. Marco Roma è il nostro fantastico, diciamo, mascot audio. He's like our audio mascot. Every day. He sends a vocal message to Radio Città Fujiko. Always in love. Like, really. Sometimes he's in love. Sometimes he's pissed with this girlfriend. But that's okay. Ogni tanto è arrabbiato con la fidanzata, ma molto spesso è innamorato. Sì, è vero. Salutiamo anche i nostri amici di Radio Peng, direi, questa puntata poliglotta super internazionale. Bilingue, non mi ricordo più cosa dovrò tradurre. Ti proporrei di ascoltare che cosa è successo sabato scorso al Mambo. Oh yeah. Aspetta che però ho bisogno di trovare almeno un file del silenzio. Beh no, vabbè, lo posso trovare dopo. Perché sabato scorso al Mamba è successo che è arrivato un sacco di gente perché c'era Giovanni Truppi. Wow. Che faceva qualcosa. Adesso allora io naturalmente mi sono munito del mio registratore digitale, sono andato a chiedergli il mio pass stampa naturalmente al Mambo funziona, e sono andato a chiedergli che cosa è successo. E eccolo qua. Giovanni Truppi, che cosa ci fai al Mambo? Mi ci ha portato Aldo, in realtà per me, nonostante mi piaccia l'arte, non sono così un frequentatore di musei, ma sono, a parte il Mambo, è un posto, l'ho conosciuto tramite Aldo perché suonato al finissage della sua mostra. Ed è un posto, un finissage fantastico, fra l'altro. Di una mostra fantastica, certo. In un posto, sembra che ce la cantiamo e ce la suoniamo, però in un posto fantastico che poi ho conosciuto e ho frequentato successivamente. E niente, con Aldo poi ci siamo conosciuti meglio in occasione della sua mostra, e io gli ho proposto di accompagnare l'uscita di questo disco, il percorso di uscita di questo disco, fino ovviamente anche alla creazione della copertina dell'album, e che sta avvenendo davanti ai nostri occhi in questo momento. Sì, e Aldo, è una delle caratteristiche del suo lavoro, che è molto semplice, ma allo stesso tempo è anche difficile da descrivere in poche parole, è proprio quella di portare le persone dentro l'opera piuttosto che quindi abbattere la barriera del tra l'artista e il fruitore, esatto, certo, e lo spettatore. E quello che stiamo vedendo è un quadrato bianco chiamato Infinite possibilità per essere finiti, che è il titolo dell'album. Per essere finiti. Questo è il titolo dell'album. Ok, sì. Scusa l'ignoranza, ma no, io mi occupo di arte contemporanea e non di musica, per cui no, ma è un album che non esiste ancora. Ok. Cioè che esiste ma non è stato pubblicato ancora. E niente, siamo qui Dunque qui al Mambo abbiamo, oltre a Aldo, abbiamo persone che stanno riempendo questo spazio bianco e che rimane qua per un po' di tempo, per cui avranno un po' di tempo per... Sì, sarà qui per... Scusa, io nel frattempo vedo che mia figlia... Ah, questa è tua figlia? Ah, grande! Non sta rovinando... No, ma figuriamoci! E... E sarà qui per un po', sì, a disposizione di chi voglia venire qui a portare il suo contributo. Poi scatteremo la foto di copertina e successivamente rimarrà qui per un po', per essere continuato per anche dopo che la copertina, a prescindere, esatto, dalla copertina. Poi non rimarrà per sempre, ma ci rimarrà. Fantastico, mi sembra un'idea fantastica. Adesso andiamo a sentire anche Aldo cosa mi racconta su questo progetto. Infatti, grazie Aldo Giannotti, bentornato al Mambo. Grazie. Cosa grazie combini stavolta? Ormai questo foyer è diventato il foyer Aldo Giannotti. Ma io vengo solo per venirti a trovare, poi trovo le scuse che mi invitano per poter parlare con te. Esatto. La copertina del disco si sta formando davanti ai nostri occhi. Come ti è venuto in mente? Anzi, come ti è venuto in mente di proporre a Giovanni una roba del genere? Noi abbiamo iniziato a collaborare un annetto fa in diverse direzioni. Quindi ho fatto per lui i video del nuovo album, gli ho fatto dei disegni per il web, per tutto. E poi sapevamo che alla fine di questo anno di collaborazione sarebbe stata la copertina. Quindi ho avuto abbastanza tempo, e dopo aver provato un approccio, diciamo, più classico con dei disegni, ho pensato no, torniamo a fare quello che mi viene meglio e cerchiamo di creare un progetto dove non sono io che propongo, quindi un sistema relazionale chiuso tra illustratore e artista per la cover, ma facciamo una cover dove verrà partecipata e verrà creata dal pubblico che ascolta Giovanni o che segue me, ma principalmente che ascolta Giovanni. Certo. E quindi è stata sì. Gli ho proposto questa idea, lui mi ha guardato con occhi di terrore per poi decidere che in realtà si poteva fare e gli piaceva, ed era conseguente all'album che stava tirando, al percorso che abbiamo fatto nell'ultimo anno, quello di chiudere con ancora più partecipazione, chiedere alla gente di realizzare e di dare la fiducia alla gente di poter creare questo. Quando hai fatto la tua personale al Mambo, c'era questo spazio esterno interno chiamato The Column, dove la gente poteva entrare 24 ore al giorno, e naturalmente hanno cominciato spontaneamente a scrivere sui muri fino a che non era tutto pieno di graffiti, di tag, eccetera. Ma quello era voluto o era sì. Cioè non era pensato, però non era, cioè non, in questo caso li stai istigando, in quel caso sapevi che sarebbe successo. Esatto, lì il lavoro era proprio un intervento quasi un ready made architettonico, dove isolo questa colonna e crea un accesso ampliato del museo, però sapevo che essendo uno spazio nascosto, uno spazio dove con pareti bianche sarebbe bastata una prima traccia di pennarello per farla esplodere esponenzialmente. Ed in effetti era esplosa esponenzialmente. Devo dire che da fruitore anche l'idea di venire in un museo d'arte contemporanea e poter scarabocchiare sul muro ti dà una sorta di brivido di libertà che non credo in tanti abbiano mai provato. E dunque, vabbè, istighiamo chi vuole, tutti i fans di Giovanni, di venire al foyer del Mambo, che ora ormai è chiamato foyer Aldo Giannotti, a contribuire alla copertina. Quanto tempo hanno? Credo che quello che stiamo cercando di fare è di tenerla per un mese. Ok. Di tenere il pennarelli a me. Però se vengono nei prossimi 2 o 3 giorni è meglio, direi. Sì, perché poi comunque noi cominciamo a documentare e poi sarà poi una decisione grafica di decidere qual è il momento che viene fermato. Venite dotati di pennarelli e molto secchi. Fantastico, grazie mille. Aldo dice venite dotati di motoseghe, perché l'anno scorso quando è stata la sua mostra? 2 anni fa non mi ricordo, pre-covid alla mostra di Aldo Giannotti, sai che non mi ricordo neanche io, secondo me era dopo covid, è stato l'anno scorso. Sì. E a un certo punto è arrivato uno con una motosega e ne ha segato via un pezzo che era nelle istruzioni del certo E dunque, se volete, andate da domani, visto che oggi è lunedì e il Mambo è chiuso, era chiuso, insomma, adesso comunque continua a essere chiuso fino a domani, potete andare a contribuire alla copertina del nuovo disco di Giovanni Truppi, che mi ha detto come si intitola, ma non me lo ricordo perché è difficile, però c'è un singolo che è già uscito di questo disco che si intitola La Felicità e adesso lo andiamo ad ascoltare, eccolo qua. Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto, avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo mentre cercavo la felicità. L'ho visto piangere e chiedere aiuto mentre cercavo la felicità. Ho perso tutti i capelli mentre cercavo la felicità. Si è fatta notte ed è finita la festa mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Mia figlia ha imparato a parlare mentre cercavo la felicità. C'era una nuvola e poi c'era il sole mentre cercavo la felicità. Il vento mi accarezzava mentre cercavo la felicità. Pure Marina ha trovato lavoro e adesso deve cambiare città. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Papà e mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Cercavo di qua, cercavo di là, stavo cercando la felicità. Andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Guardavo la mia vita cercando di capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella. E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità. Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo, sarà questa la felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se è un premio o una scusa, una madre o una rosa, se è un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera e piena di misericordia, senza nessuno da abbattere e niente da dichiarare, chiara come l'arrivo dell'ora legale. Stavo cercando la felicità, andavo di qua e andavo di là mentre cercavo la felicità. Andavo di qua, andavo di là, stavo cercando la felicità. Linus, do you like this better? No, fra l'altro il video è bellissimo. Cioè Aldo Giannotti ha fatto un video fantastico. E adoro questo sound, posso dire? No, beh, Giovanni Truppi è un grandissimo. Me lo ascolterò tutte le mattine, mi sa. Assolutamente. Aspettando la primavera. No, è un grande. È un grande. Io l'ho conosciuto tramite Aldo Giannotti, mentre tutti gli altri hanno conosciuto Aldo Giannotti tramite Giovanni Truppi, che ha partecipato anche a Sanremo l'anno scorso, e io al contrario ho fatto il contrario, ma grande, ci sta. Come sempre sei un bastian contrario. Sì, no, infatti. Allora, di che torniamo cosa alla 440esima puntata di Coxo Spaziale e con due fantasticherrimi ospiti e ospitesse che parlano italiano e inglese. Partiamo con Maddalena Papini, che sei qua come dicevamo prima per la seconda volta, però questa volta senza il tuo socio Mamadou. Sì, Mamadou questa sera si riposa, lo salutiamo lo salutiamo tantissimo e in realtà il fatto che tu, donna, sei qua a parlare anche del tuo essere donna, di due eventi che stanno per succedere a Bologna. Sì. E vuoi parlare di questi due eventi che si terranno il 9 e l'11 di marzo? Sì, sono due eventi in cui Vicini Stanti è stato invitato proprio per festeggiare le donne di tutti i paesi, di tutte le lingue, di tutte le forme, di tutte le taglie, e lo faremo tramite una sfilata. E siamo stati invitati il 9 questo giovedì all'Aula Maglia del Maggiore, e quindi la sfilata sarà appunto l'inizio di questo talk, dove ci saranno vari ospiti, ci saranno c'è un'atleta paralimpica, c'è una poliziotta, ci sono due drag queen, insomma c'è un mix di tanti contributi per vedere proprio la donna a 360 gradi. E invece chiacchiere e una mimosa. Esatto, quattro chiacchiere e una mimosa è il titolo. Alle 19.30, un gran 19.30 comincia l'aperitivo, e poi ecco, insomma, una serata insieme per fare quattro chiacchiere insieme proprio sulla figura della donna. E sono stata invitata anch'io come donna, ma anche appunto in rappresentanza di Vicini Distanti. E quindi avrai una duplice. Sono abbastanza emozionata, devo dire, perché c'è la sfilata da organizzare, quindi un gruppo di donne, di volontarie che sfileranno, ma al tempo stesso anche dovrò un po' raccontare della mia esperienza. Di Vicini Distanti o della tua esperienza come donna? Ti stuzzico. Diciamo quello che ho scoperto come donna grazie a Vicini Distanti, dai. Wow. Direi che farò questo, cercherò di mettere insieme queste due cose. Invece qua è arrivato un messaggio da un uomo che dice: stasera vi tradisco al Gael Bulagna. Assorbole. Sì, evidentemente gioca al Bologna stasera. Io è vero, me l'ha detto anche mio marito. Ah, okay, che saluto e che so che mi ascolterà però comincia alle 45, per cui ragazzi non dai. Ci tradite, fino ai 45 sintonizzatissimi. Ok, non sapevo che i Coxy ci fossero anche fans dei Bologna. Vedi, invece si scoprono sempre cose nuove. Grande, però rimanete con noi almeno fino alle 45. Ok. E vorrei aggiungere una cosa a quello che raccontavi, Maddi, di scrivere una mail a eventi@fitelemilleromagna.it, perché sono gradite le prenotazioni alle 19.30 del cocktail di benvenuto della serata quattro chiacchiere e una mimosa, quindi di giovedì, esatto. Sì, e poi ci sarà un altro, perché sarà una serata fantastica, cioè un sacco veramente di presenze, di partecipazioni meravigliose, no? Sì, bello. E poi ecco, poi diciamo simile, sempre organizzato da FITEL, Federazione Italiana Tempo Libero, e altri. E invece sabato pomeriggio ci sarà invece al centro commerciale di Via Larga più o meno ecco lo stesso format, quindi talk più sfilata, e qui ci saranno anche altre persone insieme a te che faranno la talk. Esatto, sì, c'è la vice sindaca, ci saranno alcune figure nel mondo del lavoro, ci sarà un soprano, una cantante jazz, alcune imprenditrici, quindi diciamo vedremo un po' la figura della donna cercando di andare appunto al di là di quelli che sono un po' gli stereotipi, e quindi anche donne che hanno vissuto vite di sacrificio per riuscire anche ad andare contro certi stereotipi, quindi la vigilessa piuttosto che altre che hanno fatto vite insomma importanti, certo, con una carriera importante. Poi ricordiamo che tra le modelle che sfileranno l'11 ci sarà io. Ah. Ci sarà anche la mia. Ah, così ce e una cosa che è una cosa che mi piace moltissimo è che sarà una sfilata senza vestiti, dove la cosa non, sì, non nudi. Cioè, non nudi, volevo un attimo aggiungere. Giffo, dove sei, capito? Una sfilata anche senza quelli, vestiti. Anche quelli che sono a vedere la partita, sì, adesso no, infatti, si sintonizzano. Occhio che qua c'è un marito che sta ascoltando. Allora, dicevamo, non sfileranno i vestiti, ma sfileranno i tessuti, no? Sì. In questa passeggiata condotta poi da donne di insomma un sacco di amiche che ci saranno, che parteciperanno a questa sfilata, quindi donne che vogliono anche loro lottare contro gli stereotipi, che vogliono accompagnarti te Maddalena, ma anche Vicini Distanti, in questo grande progetto che state conducendo, prendendo per esempio i tessuti wax africani, però poi riportando questo messaggio specifico all'abbracciare tante donne di tutto il mondo, no? E in che senso sfileranno? Cioè, come ti è venuta questa cosa di non fare gli abiti ma costruire? Ho fatto le prove l'altra sera e ha preso un tessuto e me l'ha proprio messo addosso, arricciandolo e annodandolo, creando turbanti, insomma era una cosa meravigliosa. E mi sono detta, ma perché ho comprato sempre dei vestiti già fatti e non sono andata prima da Maddalena a farmi un vestito così, prendendo un tessuto e uscendo? Beh, l'idea, no? Devo dire, mi è venuta dall'Africa, nel senso che in Africa le donne portano i pagni, appunto, come proprio come gonne, come le usano come fasce per portare i bambini, cioè veramente questo tessuto viene utilizzato anche al mercato per portare magari la frutta, la verdura al proprio banco, quindi è veramente un tessuto polifunzionale e, dicevo, anche molto ricco di significati, di tradizioni, quindi è proprio un simbolo, diciamo, delle donne africane. E questa energia mi piaceva metterla intorno a corpi di donne diverse, per, appunto, di varie provenienze, che si sono, appunto, così date disponibili per questa camminata di varie età. Ci saranno anche delle bambine, quindi insomma il percorso per diventare donne è un po' simboleggiato da questa camminata. Certo. E credo che possa comunque essere emozionante all'interno di una serata dove insomma si parla di questo, si parla di come diventare, come essere donne a 360 gradi. Bellissimo, tessuti fra l'altro fantastici, coloratissimi, e possiamo indirizzare gli ascoltatori ad andare su coxspaziale.blogspot.com per ascoltare anche i racconti che Mamadou ci fece un anno fa sui messaggi ricchissimi all'interno di tutti questi tessuti. E qua mi leggo, prima che scatti la pubblicità, a chiedere al nostro ospite tedesco, però in realtà, che do you want to speak English or Deutsch? Or Deutsch, not German. Well, I'm rather English. Ok, or Italian. Sì, not Italian. Not anche perché il tedesco chi lo sa? Tu lo sai? Ich verstehe ein bisschen Deutsch, aber ich nicht spreche. Hai capito. he speaks French too. We can speak French, yeah. But let's do in English. Okay. In italiano, dai Henning, raccontaci cosa sei venuto a fare, perché questa in effetti è una settimana complicata, cioè è partita oggi la Children's Book Art Fair, no, what's it called? Children's Book Fair, there's no art in it. And, there's not always art in children's books, yes. Sometimes it is, sometimes it isn't. E anche c'è c'è l'8 marzo questa settimana, per cui c'è, sì, 8 marzo, yes. like we celebrate women, mm-hmm. and we celebrate art and illustrations and children and Henning. E dunque cosa ci hai portato questa, che cosa sei venuto a fare a Bologna questa settimana? What Why you are here in Bologna? Just to visit Coxo Spaziale, right? Exactly. One, and then I thought, while I'm here, I'm gonna go to the book fair as well. So, okay. And I've been going to the book fair for 20 years nearly, I think, so 15 years. Sono 20 anni che visita la fiera del libro per ragazzi come illustratore. Yeah. Come illustratore di un certo livello. Infatti, how many books have you published so far? I think it's something like 55. 55 libri ha pubblicato. And wow. It all started because I was chosen to be exhibiting in the Bologna Book Fair. È cominciato tutto per il fatto, come, perché sto traducendo? Non lo so, non mi ricordo più cosa devo tradurre. Devo tradurre dall'inglese all'italiano? Sì. O dall'italiano? No, dall'inglese all'italiano. Certo. Ok, è tutto cominciato? Can you continue? I'm your translator. You're my translator. I will be a lot of errors and mistakes, but I'm here. Anyway, I wanted to, you know, and it wasn't Bologna, and then I thought I go to Bologna and go to the book fair, and then it all started. I got my first book, that's 17 years ago, and now I've done 55. 17 anni fa ha fatto il suo primo libro, questo, esatto, grandissimo illustratore. E qua ricordo tutti gli ascoltatori italiani che siamo pieni di cartoline e libri. Ho in mano l'ultimo libro di Henning Löhlein. Mm-hmm. Now was right. Che si chiama Der Humpel. Der Humpel. Cosa vuol dire? What does it mean? It does not mean anything. Oh, this, okay, is the unique character which is called the Mumpel. Questo è veramente non significa niente, Mumpel, neanche in tedesco, quindi non cercate significati. È proprio il nome del protagonista di questo libro. E cos'è questo protagonista? Che cosa di speciale questo protagonista? Cosa ha raccontato? Well, the problem about our protagonist is that he is invisible, but he doesn't know it, so it takes. Il problema di questo protagonista è che è invisibile, ma non lo sa. So the first part of the story, he's finding out that actually all the other animals, they're all trying to make friends, and but nobody, everyone ignores. La prima that. Parte di questo libro racconta wow. proprio il fatto che lui sta in giro. Lui is a guy, not a girl. Maybe. No, you don't know. We don't know. Okay, don't okay, know. Okay. Okay. Questo esserino fantastico, voglio dire, perché ha un disegno bellissimo, va in giro per la prima parte del libro a cercare di farsi amici. E prima che io fuori onda l'ho cominciato a vedere, a scoprire, quasi viene da piangere, posso dire. Che è il giro che dice, dai, per piacere, gioca con me. The book makes her cry. That's what she says. Well, because no, it has a happy ending. Because I see also myself, no? In when I was little, to try to make friends, and sometimes you don't get heard by, right? Exactly, and this is the beauty of children's books. You can have those subjects, and you know, of course, they always end up happily, which they Infatti, might not in real life. La bellezza di questi libri per bambini è che puoi avere dei soggetti appunto un po' sgradevoli che però poi finiscono con il lieto fine, naturalmente. And what's the second part? In the second part, he realizes, or they realize, that they are invisible, and therefore they use it as a strength, and they're just going to amuse themselves with the other animals, and they just, and this is always the beauty of children's books. Where, you know, the weakness becomes a strength. Nella seconda parte appunto scoprono la sua invisibilità e la usano come forza per, sì. contro gli altri animali cattivi, per cui no, e gioca anche insieme a tutti, giocano anche insieme, cioè dice certo. che figata. In realtà la prima parte dice no, cavoli, sono cioè, cosa succede, perché nessuno mi parla, poi scopre di essere invisibile e capisce che è una grandissima figata, cioè è proprio una bomba essere invisibile, comincia a giocare, gira, è felice. E questa cosa appunto la bellezza dei libri per bambini, che a volte ti fanno rendere conto che una parte che potrebbe essere vista come negativa, una debolezza, la doppia faccia, c'è sempre una doppia faccia che può, quindi può essere anche una grande forza. A double face in children's books where something that is can be a problem becomes a strength. Mm. And there is a poster. A poster? At the end of the book. There is a poster of the book. So you can put it on the wall and it can become your hero. Yeah. Oh, wow. It already became my hero. Lo puoi mettere nella tua cameretta e può diventare il tuo eroe. Oh, that would be nice. Have you had anything tattooed on your character, out of your characters? No, you're right. Well, then Mia would be the first the first goal. No. The moon. Anyway, in ogni caso vi devo interrompere perché a quest'ora ci sono le pubblicità delle 20:30 e sono già le 20:33. Coxo Spaziale. E associati subito. Coxo Spaziale. Ah, ecco, mi stavo dimenticando di continuare la trasmissione. Eravamo tutti quanti assorbiti a leggere Der Mumpel. Infatti. Con ospite in presenza Henning, e ogni volta ho paura di pronunciarlo bene o no, e Maddalena Papini di Vicini Distanti. Sintonizzatevi tutti Lula. Quanti su Coxo Spaziale. Lulain. E scriveteci al 333 180 94 94. Ci hanno scritto che bravi che siete. Ah, wow. Ma io so chi è. Beh, comunque grazie. Okay. Anche se ti conosciamo, grazie per averlo scritto. Esatto. E poi ho qua un altro bellissimo libro che si chiama Hats Off. E ho già detto amazing. Amazing. We have another book. And here, please tell us about Hats Off. Well, Hats Off is a series of sticker books. So sticker books. This is for the younger audience, for 2 to 3 year olds. Wow, dai 2 ai 3 anni un libro con gli adesivi, che bello. Wow. But if you have also 35, you can enjoy. Yeah. Yes, and even 65. Yeah. I think it's all for all age groups, really. Se hai 35 anni puoi comunque godertelo, e anche se ne hai 65. Adesso traduco il contrario. E la figata che si sta prendendo. Si attaccano. Wow. And the beauty about those stickers is when they don't stick anymore, you wash them on the cold water and they stick again. Wow. So they will last forever. And you can have fun for years. Di questi adesivi è che quando non attaccano più li lavi con l'acqua fredda e si mettono ad attaccare di nuovo. Cioè, vuoi fare una foto a questo bellissimo cavallo? Aspetta che ti fotografo. Veramente. Questo bellissimo cavallo con il cappellino. Ok, fatta. Scusate, mi scuso con i nostri radioascoltatori che però in realtà è una figata sentire questa pausa, ma fatta. No, fatta, ragazzi, bellissimo, ma queste sono veramente, ci sono dei personaggi, there are characters and the stickers doesn't stick or yes no doesn't stick on the dresses just on the pages. It's magic. Like there are characters. Lo sticker non si attacca alle, they have names. Pantaloni, ma si attacca no, the characters don't have names. They are just. I caratteri non hanno un nome. Io vado avanti con la traduzione perché insomma, non è che tutti sanno l'inglese. Did you choose this? Comunque. Can you read two sentences? Ma tu dovresti. I can send. Yeah. The polar bear is off to a party and he wants to look fancy. He sees a snowman. What does a polar bear borrow? Ah, il no, non ce la faccio. No, anch'io, aspetta. Did you choose the snowman's hat? Good choice. Hats off to you. Hai preso il cappellino. Hai preso il cappellino dell'orso. L'orso polare vuole andare a una festa e vuole vestirsi fancy e dunque ha preso il cappellino del era un cappellino molto bello, tipo una bombetta del pupazzo di neve. Sì, una bombetta del pupazzo di neve. Molto molto molto carino. Molto carino. Molto bello. Good choice. Cosa vuol dire hats off to you? Hats off to you. Mi tolgo il cappello per te. Cioè, battuta. tanto di hats off è tanto di cappello in italiano. Sì. Tanto di cappello. Mm-hmm. Ah, è tutto con queste, cioè è anche ironico, molto carino, molto carino. Bello, bellissimo. Beh, il successo di Henning è proprio l'ironia dei suoi personaggi, su questo non c'è dubbio. Adesso io li conosco molto bene perché anche quando avevo i figli piccoli mi portava questi fantastici libretti. Wow, I love it that your success is also from the irony, right? Ironia, and it's true, it's amazing, I love that. And this book were he's quite a funny guy. I mean, he's German, but he's funny. It's yeah, a really it's unusual quite, combination. Yeah, it's a very unusual and combination. And he's colorful. He's colorful and funny. And this book, it's from Kane Miller. Yes, right? It's published in America. It's pubblicato in America da Kane Miller. Sì. And okay. And when was it made? Quando first è American pubblicato? Edition. 2023. Yeah, so it's new. It's brand new. It's new. Ah, certo, ma questo sforna un libro. Two new books, and we're just in March. And it's the first outing in Italy. È la prima volta che viene fuori, che arriva in Italia. It's already in Italian? No, not yet. We want it. Alcuni di questi sono stati pubblicati in Italia. Some of these have been published in Italy, right? By Mondadori, if I'm not mistaken. That's right. Yes, uh-huh. It was Ludwig the Space Dog. Yes. Come? Okay. Come si Ludwig chiama? The Space Dog. Ludwig the Space Dog. Which was Ludwig... an adventure in three dimensions. Ah, wow, un'avventura in tre dimensioni. Ludwig the Space Dog. Ludwig il Ludovico, il cane spaziale. It's not from the. How did they spaziale. Ah, il sì. Cane spaziale, that's it. We had to talk about it in Coxo Spaziale. Absolutely. How could you not Coxo mention spaziale, cane spaziale. Ludwig cane spaziale in Coxo Spaziale? Comunque, detto questo, devi venire dalla mia parte perché è ora di questa cosa qua. Okay. L'angolo della menzione. Dream big. Allora, c'è un sacco di roba. Dal 1 marzo al 5 maggio 2023 torna Boom, crescere nei libri, il festival che trasforma Bologna nella capitale dei libri per l'infanzia. Boom è l'occasione in cui i libri per bambini e bambine invadono la città rivelando la ricchezza e la vivacità che confermano Bologna come un centro senza uguali nel campo della produzione culturale per l'infanzia. E trovate tutto su www.boomcrescerneneilibri.it perché gli avvenimenti sono troppi, cioè è una pagina in A0, cioè di eventi, ed è veramente un po' troppo per noi per raccontarli tutti. Però possiamo raccontarne uno che succede martedì 7 marzo all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove alle 16.30 c'è l'incontro con Sara Mazzetti e Ilaria Del Gaudio, che è stata anche ospite qui. E parleranno di Elsa Morandi e L'Uovo Verde, che è il libro in cui il linguaggio del fumetto si fonde con l'illustrazione, la fotografia e la grafica per dare vita a una storia ispirata al celebre artista Giorgio Morandi. Negli spazi di casa Morandi in via Fondazza 36 negli spazi del Dipartimento Educativo del Mambo in via Dominzoni 14, dal 6 marzo al 30 aprile sono esposti gli originali di Elsa Morandi e l'Uovo Verde insieme a diversi materiali preparatori, ma ne parleremo meglio io e te la settimana prossima. L'evento è all'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54 il 7 marzo, che è domani alle ore 16:30. Sempre martedì 7 marzo alle ore 18:30 presso Adiacenze, le Metamorfosi di Ovidio di Daniele Catalli, mostra presentazione del progetto editoriale edito da L'Ippocampo Edizioni, nell'ambito di Boom Crescere nei Libri a Adiacenze in vicolo Spirito Santo 1 a Bologna. Invece, sempre mercoledì 8 marzo alle ore 18, lo squadro inaugura una mostra di Felix Bork, in mostra disegni originali e serigrafie in tiratura limitata, in collaborazione col Goethe Institute in mostra le tavole originali dei libri illustrati di Felix Bork, in cui esplora un mondo magico tra finzione e realtà. Questo inaugura mercoledì alle 18 alla stamperia Squadro in via Nazario Sauro 27B. E sempre contemporaneamente, direi mercoledì 8 marzo alle ore 18, l'inaugurazione della mostra All the Colors of Noir, con la partecipazione di Accademia di Belle Arti Bologna, École Supérieure d'Art et Média. Te l'ho lasciato a te per quello, perché io non so pronunciare tutto. Poi Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ok. Hamburg, la Massana Art and Design School di Barcellona, Schenker College of Arts, Engineering and Design di Tel Aviv e Kyoto City University of Arts in Kyoto. In collaborazione con Alliance Française, dall'8 marzo al 30 aprile, dal lunedì al venerdì, all'Istituto di Cultura Germanica in via De Marchi numero 4. Poi giovedì abbiamo 9 marzo alle 18 Le Radici, la poesia a cura di Alberto Bertoni e Paolo Valesio. Graffiella Sidoli dialoga con le autrici Barbara Herzog ed Eva Laudace, che adoriamo, è una poetessa che è stata anche qui ospite a Coxo Spaziale. Questo lo trovate, è un evento che non c'entra niente con Boom stavolta invece, ma lo trovate alle librerie Coop Zanichelli in piazza Galvani 1 a Bologna giovedì alle 18. Poi mi sono anche dimenticato di dire questa cosa, perché in realtà è importantissimo: domani sera alle 20, se non sbaglio, c'è anche Stella Morris, ovvero la moglie di Julian Assange, che parla di Julian Assange in sala Borsa, da non mancare. Wow. Dopodiché il 9 marzo, quattro chiacchiere una mimosa, esatto, di cui abbiamo parlato, ma riparlerà ancora Maddalena Papini di Vicini e Distanti. E infine venerdì 10 marzo alle ore 21, l'immagine è un grumo che addensa nel cuore, poesia, musica e fotografia, un evento poetico e musicale originale scritto e composto per accompagnare le suggestioni del cinema interiore di Simone Martinetto, poesie di Virginia Farina, voce, canto e macchine fotografiche, e musiche di Simone Martinetto, pianoforte e tastiere, allo studio Cenacchi Arte Contemporanea in via Santo Stefano 63. Dopodiché l'11 marzo c'è la sfilata, dov'è che è? Alla Cona di Via Larga. Parla, Maddi, sei on air. Centro commerciale Via Larga. Grazie. E a che ora? Alle 16. La sfilata alle 17, alle 16 c'è il talk. Alle 16 c'è il talk, alle 17 c'è la sfilata, in cui appunto c'è anche la mia. Troverete Mia che si sfila i vestiti, giusto? No! Prima hai detto così, adesso. Assolutamente no. Sta che comunque è da non mancare alla Conad di Via Larga. E siamo ancora qui nel magico ultimo quarto d'ora con i nostri ospitoni. Cosa important things to say in the last 15 minutes? Boom. Hey, what's important for the last 15 minutes? Well, where are we going to eat afterwards? Le cose importanti dei prossimi minuti. What's your, da dire what's your next minuti. Book? Qual è il tuo prossimo libro? Oh, I don't know. I mean... Troppe richieste. You have too many requests, and you have to pick the right one, right? What's your favorite books? You did. The one I did. Oh, they're different ones. They're different ones for different ages, for different mood sort of thing. But I mean, what I like in doing picture books, because you can put a nice message, you know, you might not reach so many people, but you know, it's nice to package up in a beautiful way. Quello che mi piace fare i libri pittorici, picture book, sì. Pittoriali, immaginativi. Hai tutta la libertà possibile per mettere quello che ti pare. Sorry, you keep on going. And you can say something funny and you can say something profound and you still can make it look really nice and colorful, and some children might get something out of it, or some parents might get something out of it. Puoi dire qualcosa di carino, divertente, ma anche qualcosa di profondo. And it is about seeing the world in a different light, really, and that's why all, you know, those books are always about outsiders, about difficulties and stuff, but it always ends up happily. L'abbiamo perso. Riguardano, puoi sempre guardare e trovare qualche significato nei libri. A volte trovi anche delle difficoltà, you find some difficulties in it, right? Mm. E trovi anche sempre come Der Mumpel un modo per uscirne, direi, anche da queste difficoltà. E questa è la bellezza dei libri per bambini. And when arrived your first, I mean, when was your first, how do you say, your first movement from inside to say, I want to illustrate, to do an illustrated book? Well, actually, I did magazines and newspapers for a long time, for 15 years. Da 15 anni faceva l'illustratore per magazines e giornali. And I started using more of my animals in my illustrations, even though they were for the Financial Times. Ha cominciato a usare molti più animali nel suo modo di illustrare. And then you think, well, it would be nice that the pictures last a bit longer. E a un certo punto pensi, sarebbe molto. So then you wanted to do children's books because, you know, se queste pictures last longer and durano di più. And you can put your own message into it, or you know, the message of a writer. E dunque cominci a progettare un libro per bambini. You already know the end of your books when you start it, or it appears? No, I always know the end. I only, you know, I mainly, if I do my own books, they're often driven by the visuals, actually. So, and otherwise I illustrate other people's stories, so of course I read the story and I know how it ends. So. Nice. La domanda era se sai sempre come finisce la storia. E sì, fondamentalmente ha detto che lo sa sia se la pensa lui, oppure se ha letto la storia di qualcun altro e sta illustrando il testo di qualcun altro. And if somebody wants to know more about you and your works, do you have a website to say? HenningLohlein.com. It's Lohlein.com. LHLEIN.com. Or Instagram. Books over there. Il sito lo troverete è Lohlein.com. You can buy also from there. Lo trovate direttamente su domani a coxospaziale.blogspot.com. And of course on Instagram, of course, Henning Lohlein. Su Instagram lo trovate taggato anche nella story su Radio Città Fujiko che ho appena pubblicato. Wow. Non potete mancarlo. Thank you to be here. And tomorrow you will go to you will stay the week here in Bologna, or I have to stay till Wednesday. Tomorrow I go back to the fair and so you have work to do tomorrow. Go to visit so many things. Incontri da fare domani. Yeah, because my son is listening, I will call it. It's really hard work, but I think it's fine. There's worse jobs in the world. So. Siccome Linus, il suo figlio, ci sta ascoltando da New York, deve dire. Hi Linus. Deve dire che sta lavorando veramente in maniera molto proficua e molto faticosa. Mm-hmm. Sì. È sempre una grande fatica venire a Bologna per la Children's Book Fair. Yeah, vero? I mean, it's always you need holiday after. Yes. No, actually, Bologna is always a holiday, and it's lovely to eat in Bologna. So it's a pleasure to be here. Oh, nice. Un piacere essere qui perché si mangia bene e la compagnia è ottima. Fantastico. Have you ever illustrated a book about women? Hai mai illustrato un libro sulle donne? I mainly use animals as my characters, really. I'm one of the rare children's books illustrator who hardly ever illustrated a child in my books. So. È uno dei pochi illustratori per bambini che non usa i bambini all'interno delle sue illustrazioni, la maggior parte delle volte. Per cui sì, di solito usa i caratteri animaleschi. But women can be animals also, right? I mean, you can see some of them are ladies, some might be men, some might be in between, you know, gender neutral. Alcuni hanno il gender neutrale, altri sono donne, altri sono maschi. And anche you, nei caratteri. And Maddalena, if you were an animal, which animal you will be? Oddio, che brutta domanda! Infatti, veramente. No, it's nice. I would be Dermumpel. You wanna be Dermumpel? Vabbè, Dermumpel non è male. Non è male. No, è bellissimo Dermumpel, questo animale invisibile che poi si diverte dell'essere invisibile. Sì, è carino. Simpatico da matti. Sì, sì. Comunque c'è la domanda proprio: che animale vorresti essere o in che animale ti identifichi? È una domanda. Avete presente quei da colloquio di lavoro? Da test psicoattitudinale. Okay. Cioè tipo disegna un albero e poi ogni volta lo disegni o con delle radici troppo profonde o con gli alberi secchi. Avete presente quelle cose che certo. rompono completamente la creatività e l'immaginazione perché vai a dire oddio adesso mi identificano. Infatti Dermumpel è alla fine l'animale migliore perché non ti identifichi poi. Cioè è impossibile da stereotipare. Ok. He's free. I'm saying like it's that. Free from stereotypes. Exactly. That's the beauty about it. Love it. Yeah. Love it. Love it. Did you get asked which animal do you identify with by any of the publishers you work with? No, but I had a discussion today, and I think there's something very interesting about to compare the animals an illustrator draws and themselves. You know, I think sometimes they often are self-portraits, actually. Oh, wow. So I think, as well as the mumple, as well as the sheep and the horse, there's always quite a lot of me in it. And I think it would be really interesting to do research about, can you recognize which illustrator painted what? Ah, wow. Dice che la maggior parte, cioè molti editori si accorgono che i suoi personaggi in realtà sono molto spesso quasi degli autoritratti, sia le pecore che Dermumpel, eccetera. Certo. E dice che sarebbe interessante guardare a questo tipo di illustratori e a capire chi ha illustrato che cosa semplicemente guardando. Se ci sono any students out there, they should do research on that one. I think it would be really, really interesting. Se ci sono alcuni studenti che ci ascoltano, dice che potrebbe essere una ricerca molto interessante. Vero, vero, mi piace. I like it very much. Wow, ok. Wow. Ok. Cosa? Niente, abbiamo finito il tempo di nuovo. Dobbiamo già finito. Già finito di nuovo. Non perché so qua se, vedo le 50, ma non so le 50 qualcosa. Qua in realtà sono i 54. Ok, perfetto. Maddalena, no, stavo qualcosa pensando, da dire. Stavo pensando all'animale, dicevo che perché questo è un animale invisibile che si diverte, insomma, che prima si dispiace, poi si diverte della sua invisibilità. Ma forse a me viene da dire che io sono cambiata grazie a questa possibilità di vicini distanti, nel senso che probabilmente all'inizio ero più verso il leone, la tigre o comunque insomma quegli animali che un po' feroce. Re della foresta, sì. E pian piano diciamo che stare insieme comunque a persone che vengono da altri contesti, che sono stati comunque sbattuti insomma a Lampedusa più o meno, diciamo che credo mi abbia un po' addomesticato, mi sento di essere un animale che sta mutando pelle e questa è una cosa secondo me molto bella, cioè nel senso che certo. sono grata di questa cosa e quindi ecco forse per quello che non sapevo darvi un po' l'animale che sto diventando. Ecco. È bellissimo essere un animale in divenire. E ricordiamo che su vicinidistanti.com possiamo vedere tutti i vostri progetti come associazione di promozione sociale e anche i vostri concept di sfilate, perché ogni volta tu crei delle cose super interessanti e quindi bello, da leone chi lo sa che cosa diventerai. Super interessante questo essere in dialogo. Stefano, ovviamente sapete tutti che è una scimmia grande, sempre stato grandissimo. Io sono curioso come una scimmia, che ti devo dire. E poi invece il nostro amico Giffo mi aveva chiesto: potresti mettere una canzone e dedicarla a me, il mio amore Chili Elf? Certo, però sì, con la sigla finale, per cui mi dispiace Giffo, ma la nostra canzone che ti dedichiamo parte dicendo così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Questo era Coxo Spaziale, io naturalmente ero Mia da Schio su PA e io ero Stefano W. Pasquini. Ringraziamo Henning Lowline e Maddalena Papini di Vicini Distanti. Vicini Distanti. Ciao a tutti, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. Ciao, forza Bologna. Yeah.